fatto la bocca a questa storia di essere tutti in zona gialla, forse troppo, perché vista la gente per le strade in questo fine settimana, vista la Germania che vara regole più dure, il governo starebbe pensando ad una stretta ulteriore per i prossimi giorni. Staremo a vedere mentre l'esecutivo naviga in acque agitate. Sono quelle della mitica verifica, il momento nel quale, in Italia è una tradizione anche più radicata del pranzo di Natale, il Presidente del Consiglio incontra i maggiorenti dei partiti per, anche questa frase da consolidata tradizione, rilanciare l'azione dell'esecutivo. Nel fine settimana abbiamo anche appreso che in leggiadri gazebo a forma di primula disegnati da Stefano Boeri il 15 gennaio dovrebbero partire le vaccinazioni contro il Covid. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Quest'anno Natale, Capodanno non esistono. Non possono essere i giorni delle feste normali, altrimenti andiamo al disastro. It's now or it's never, we can bust this town tonight and forever. Tonight is the night we're leaving together. Come on. Eccoci, eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, si inizia con Vincenzo De Luca. Quest'anno Natale e Capodanno non esistono. Come state? Lunedì 14 dicembre, eh? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Con Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione. E sì, lo dico subito all'ascoltatore che scrive: ma come, lanci il cashback, la lotteria degli scontrini, mi dici di comprare nei piccoli negozi, fai tutte zone gialle e poi dici no, ma che brutti questi assembramenti. Ma me l'hai detto tu, io avrei comprato online tranquillamente. E dai, no? E dai. E poi, come scrive Paolo Mieli ottimamente, poi parleremo con lui come sempre alle 8:15 oggi sul Corriere della Sera, la cosa curiosa è che il governo ha pensato di mollare sulle regole, almeno quelle che riguardano i piccoli comuni, non sulla base di scelte sanitarie, ma per mera convenienza politica, per tenere calma la situazione con gli alleati un po' riottosi, eh? E dai, dai, su. Bastava dirla da subito come Vincenzo De Luca, no? Come Vincenzo De Luca, come l'abbiamo sentito un istante fa. Quest'anno Natale, Capodanno non esistono. Non possono esistono, essere non i esistono, giorni delle dice feste Vincenzo normali, De Luca. Andiamo... Eccolo qua, eccolo qua. Vabbè, sempre un po' drastico lui. Allora, la questione politica, la questione politica. Intanto siamo anche in diretta su Facebook, lo sapete bene. Siamo là, se volete ci potete ascoltare, tutto quello che volete, vedere anche. Oh, la questione politica. Vogliamo parlarci chiaro? In questi giorni ho letto anche molti di voi che attaccavano duramente Italia Viva e Matteo Renzi per questa richiesta a Conte di chiarire, di cambiare, di modificare, per questo segnale di instabilità che ha dato. Però vogliamo parlarci chiaro? Che Renzi parla, ma in realtà sotto traccia chi si muove sono gli altri pezzi della maggioranza. Perché le persone a cui non va bene come sta andando il governo in questo momento sono esattamente il PD e un pezzo del Movimento 5 Stelle. E quindi prendersela con Renzi in questo caso, bah, è solo la parte più visibile del tutto. Comunque, sentiamo Maria Elena Boschi, va. Intanto noi ci auguriamo ovviamente che non si apra nessuna crisi, quindi ho detto ci auguriamo che questo non succeda. Se si dovesse aprire una crisi però io non credo che andremo alle elezioni, ma non andremo alle elezioni intanto perché noi abbiamo tutto l'interesse a eleggere un presidente della Repubblica europeista e non sovranista nel 2022. Ed è il motivo, anche uno dei motivi per cui è nato il governo attuale un anno fa, evitare che i sovranisti andassero al potere e ritrovarsi poi un presidente della Repubblica magari sovranista, con tutto quello che comporterebbe anche per i cittadini italiani. Così Boschi, mi sembra abbastanza, ripeto, senza ipocrisie, anche sulla questione dell'elezione del presidente della Repubblica, qua non è che si vuol celebrare Italia Viva, però almeno le cose si dicono chiaramente. Boschi ancora. Io non credo che si vada alle elezioni, anche perché no, al di là di Italia Viva, un suicidio, il Movimento 5 Stelle, per primo, che è il gruppo, parlo di loro perché sono il gruppo più numeroso, no, in Parlamento oggi, loro hanno un problema non solo per il secondo mandato, ma anche perché tanti di loro non tornerebbero nemmeno in Parlamento, quindi non c'è, secondo me, una condizione per cui si tornerà non ci al sono voto. E quindi, capito, la strada è, se cade Conte, si fa un'altra maggioranza. Del resto, su questo fronte, tutta la sceneggiata che abbiamo visto nei 10 giorni scorsi è riuscita di fatto anche a spaccare il centrodestra, con Salvini che improvvisamente ha detto che non vuole più votare, non ci sono le condizioni, non si può, la Meloni che si è arrabbiata, Salvini. Perché andare a votare con gli ospedali pieni non mi sembra possa essere una cosa di minima intelligenza. Eccolo ancora Salvini all'aria che tira. Sperando che per la primavera inoltrata, l'inizio dell'estate, la situazione sanitaria sia sotto controllo, per me prima si vota meglio è. Se nel frattempo evitiamo di tenere il governo litigioso degli Azzolina, Bonafede, De Micheli, che non ne concludono una, ma per qualche mese, fino a che si arriva al voto, ci fosse un altro governo, magari di centrodestra, sostenuto in Parlamento da chi ci sta e alle nostre stesse idee di rilancio economico e sociale del paese, perché no? Cara Marianna Aprile, come stai? Buongiorno. Buongiorno a tutti, allora, tutto bene, grazie. Tutto si può dire di Matteo Renzi, non che non abbia questa capacità anche tattica di creare un casino inenarrabile in entrambe le coalizioni, sia dalla sua parte che dall'altra. Sì, direi che come frontman è impagabile, dopodiché hai ragione tu, è un ballo di gruppo, non è una danza solitaria, cioè si spostano tutti in maniera coordinata e composta secondo quello che più passano i giorni sembra essere un piano concordato. Poi quando c'è di mezzo Renzi i piani concordati sono pericolosi anche quelli, sì. Però diciamo che l'impressione è che appunto tutto sia più o meno concordato con il PD e con una parte dei 5 Stelle, che evidentemente si ricollega anche alla svolta quirinalizia di Salvini sul governo Ponte, sì. Evidentemente con l'appoggio più o meno esplicito del Quirinale sanno che non si andrà a comunque che se ne continui a dire, e quindi ovviamente ognuno si muove per cercare di conquistare quei piccoli spazi, quelle piccole posizioni in vista dell'arrivo del malloppone del recovery. Perché è quello il grande tema. È tutto lì, però sì. Posso dire, al di là di tutto, cioè, credo sia un buon esercizio provare a immaginare di sostituire i protagonisti di quello che succede, no? Provare a immaginare cosa sarebbe successo se al posto di Conte a proporre la task force, a mantenere estremamente la delega ai servizi a dispetto di tutto, a impuntarsi su cose oggettivamente poco comprensibili, ci fosse stato Berlusconi o lo stesso Renzi, avremmo visto anche di peggio. Sì, decisamente. La dittatura, no? Tutte queste cose. Se fosse stato Salvini, cioè, nel senso ci sono delle forzature oggettivamente sul tavolo, dopodiché si possono interpretare come vogliamo, ma se ci siano sembra piuttosto evidente. No, non c'è dubbio. Dalle parti del Movimento 5 Stelle dicono, con Patuanelli per esempio ieri a Che Tempo Che Fa, che è surreale parlare di crisi, sentiamo. Ma io, se dovessi trovare una parola per descrivere questa situazione, userei la parola surreale. È surreale che in questo momento del paese la politica si guardi l'ombelico e pensi a alternative a questo Presidente del Consiglio, a questo governo, ma non perché ne faccio parte, ma perché in questo momento è l'unità che deve essere la parola portante della nostra politica. Così Patuanelli, poi guarda, non vi faccio sentire Di Maio ieri da Nonella D'Urso, perché sono ancora parole di circostanza, cioè l'impressione dalle parti del Movimento 5 Stelle, soprattutto dalle parti di Di Maio, non si voglia dar l'impressione di essere dietro a questo smottamento, di essere parte di questo smottamento, e però la sostanza è che un pezzo di Movimento 5 Stelle all'interno di questo smottamento c'è sicuramente e senza dubbio. Vedremo dove condurrà, vedremo se condurrà veramente una caduta di un governo oppure semplicemente sarà un fuoco di paglia. Vi segnalo che oggi dai quotidiani un po' le indicazioni che arrivano, le idee che arrivano, è che Renzi ha smesso di parlare di crisi, quindi chissà, forse era solo una bottarella per far sentire la scintilla a Conte, fargli sentire che qualcosa può saltare. L'altro fronte, come diciamo, è quello che è successo nel fine settimana, la famosa questione degli assembramenti, delle foto che abbiamo visto tutti, alcune un po' riprese in un modo curioso, no? In modo a far sembrare che ci siano più persone di quelle che effettivamente ci sono, per le strade delle nostre città, in una giornata nella quale finalmente, tra l'altro, al nord è stato bel tempo, quindi la gente si è riversata un po' oggettivamente nelle strade, e dall'altra parte la questione che diciamo prima, se bari il cashback, mi dici puoi spendere soldi solamente nei negozi, non puoi fare acquisti online, e poi non ti lamentare se mi stai stimolando al massimo per uscire di casa e poi esco di casa. Detto ciò, forse un po' di attenzione maggiore ci vorrebbe. Sentiamo su questo il sindaco di Napoli, De Magistris. Io spero che non cominciamo, però lo dico con molta serenità, la litania della meraviglia di vedere le strade con le persone, perché mi sembra veramente di vivere altrimenti il festival della stupidità. Almeno noi sottraiamoci a questo, e vi dico che la settimana prossima ne vedrai il triplo di gente, perché se sarà zona gialla vedrai il triplo, perché le persone escono. Però io vedo il dato positivo, che il 95% delle persone, forse anche di più, hanno le mascherine. Le persone non sono degli untori, sono persone che rispettano le regole, e se nel DPC c'è messa scritto che in zona arancione si può uscire, escono. Arcuri, il commissario Arcuri. Mi serve che tutti gli italiani ci diano una mano. Non ci fate più vedere le immagini di oggi con gli assembramenti nelle strade, nelle piazze. Pensate che il desiderio sacrosanto di tornare alla normalità deve aspettare solo un altro po'. Serve un vaccino per tornare alla normalità. Arriviamoci nel modo più regolare possibile. Ed eccolo qua Arcuri. Cara Marianna, in realtà mi pare che a togliere le castagne dal fuoco al governo su questo fronte ci pensi la Germania, perché la cosa che cambia un po' lo scenario è la decisione di Angela Merkel di dare il via libera ad un lockdown più stretto proprio nei giorni di Natale, e quello che poi potrebbe portare il governo a varare provvedimenti simili, no? Sì, che sembra anche una cosa piuttosto bizzarra, essendo noi stati il paese che per primo nella prima ondata ha adottato misure restrittive prolungate e durissime rispetto a quelle di molti altri paesi. Solo che l'ambiguità di cui parlano i giornali oggi, nei messaggi che il governo lancia su cosa sia giusto non consentito, sia giusto fare, qua siamo nell'assurdità per cui i DPCM consentono delle cose che poi il governo ti dice che è sbagliato fare, no? Cioè, che è sconsigliato. Io, ti consiglio, ti permetto di andare, anzi ti incentivo ad andare a fare spese in presenza nei negozi, dopodiché se lo fai è sbagliato perché vai in giro. E questa ambiguità cosa produce? Che per far digerire quelli che verosimilmente saranno delle prossime misure restrittive nei giorni delle feste, abbiamo bisogno di evocare un modello Merkel, cioè quello non è il modello Merkel, quella è una cosa che abbiamo già fatto, abbiamo già dimostrato di saper rispettare, e che semplicemente per ragioni di opportunità politica abbiamo tralasciato negli ultimi tempi. Non dimentichiamo che ieri hanno convocato un vertice d'urgenza per queste famose misure restrittive per le feste, 24 ore prima hanno deciso di allentare alcune maglie per i piccoli comuni e sì. addirittura c'era chi chiedeva tra regioni. Cioè siamo in una schizofrenia che giustifica quegli assembramenti. Ora io non voglio deresponsabilizzare il singolo, perché ognuno risponde di quello che fa e ne risponde a se stesso e agli altri in questo caso, essendoci di mezzo un virus. Però oggettivamente se mi tratti da bambino in cui mi dici anche come devo stare seduto a tavola in casa mia, nel momento in cui mi dici i negozi sono aperti mi stai dando il permesso di andare. Un ascoltatore chiede cosa, perché l'ho citato prima, cosa c'entra il cashback, ma lo dicevo come esempio, cioè è un pezzo di tutto, di tutta questa narrazione, perché se tu mi stai dicendo il cashback, i soldi per avere il cashback li puoi spendere solamente nei piccoli nei negozi solamente nei negozi fisici e non puoi averlo il cashback acquistando online, allora a quel punto ragazzi è finita. È chiaro che mi stai dicendo ti sto stimolando, se vuoi quei soldi, che comunque sono pochi, sappiamo tutto quello che sappiamo, se vuoi quei soldi devi uscire, andare in un negozio e comprare in un negozio. Traffico. Allora, vabbè, poi c'è tutta la questione dei vaccini, vedremo come andranno le cose. Ieri c'è stato la voce di Arcuri che avete sentito poco fa, veniva da Che Tempo Che Fa. Ieri è stato appunto lungamente ospite di Fabio Fazio in una delle interviste di Che Tempo Che Fa, intervista nella quale Arcuri ha anche raccontato e spiegato questa storia della primula, ossia le vaccinazioni verranno fatte in le vaccinazioni contro il Covid in dei tendoni disegnati da Stefano Boeri a forma di primula a rappresentare leggiadramente la primavera dell'Italia che rinasce dopo il vaccino. Però vi voglio portare su un altro punto, perché sta facendo molto discutere quello che ieri Corrado Augias ha annunciato con una lettera su Repubblica e poi scrivendo anche all'ambasciatore francese. Dopo la concessione, sulla scorta di quello che è successo col caso Regeni, dopo la concessione della massima onorificenza della Legion d'Onore al presidente Abdel Fattah al-Sisi, al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, Augias, che aveva ricevuto a sua volta la Legion d'Onore, ha deciso di rinunziarvi. Oggi sarà all'ambasciata francese a riconsegnare simbolicamente l'onorificenza. Altri intellettuali e altre persone si stanno unendo a questa campagna, ex politici ed ex sindacalisti come Sergio Cofferati, un altro che ha ricevuto la Legion d'Onore, e altri stanno facendo questa medesima riflessione. Intanto sentiamo un paio di voci, e sempre a Che Tempo Che Fa, sono quelle di Paola Regeni e di Claudio Regeni, sulla verità necessaria per la morte del ricercatore. Ma noi non ci fermeremo, perché noi sappiamo che non sono solo quattro persone, è una catena enorme che dal basso va verso l'alto, va molto verso l'alto, e sappiamo che può essere scomodo andare a toccare tutti, però sono tante tante persone. A nostro avviso è giunta l'ora di dare un segnale concreto da parte dell'Italia verso l'Egitto di insoddisfazione per la evidente mancanza di collaborazione, e pertanto rinnoviamo, come ha detto anche Roberto, la richiesta di richiamo per consultazioni dell'ambasciatore Cantini. Già due anni fa il primo ministro Conte sottolineava i tempi lunghi e inaccettabili per arrivare alla verità e alla giustizia, e nel medesimo periodo il ministro degli esteri Di Maio proponeva di trarre conseguenze concrete dalla mancanza di risposte della parte egiziana. Così i genitori Giulio Regeni. Cara Marianna, questa mossa di Corrado Augias è rilevante. L'eco si è sentita anche ampiamente in Francia. Beh sì, ma io credo che sia una cosa encomiabile, e aggiungo finalmente, non per Augias, ma finalmente per tutta una serie di considerazioni che in questi anni si sono fatte sul silenzio degli intellettuali, no? La famiglia Regeni ha portato sulle spalle in questi anni non solo la richiesta di giustizia, ma anche la dignità di un paese, l'hanno difesa loro, non l'ha difesa nessun altro. E a parte un intuito numero di giornalisti che li hanno affiancati anche nelle indagini che hanno fatto e nel mantenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica sul caso, e a parte qualcuno, e penso a Luigi Manconi, ma insomma a Roberto Saviano e ad altri, c'era intorno, diciamo, un po' una iniziava a esserci un po' di silenzio, che è stato un velo che è stato squarciato da Auges e che, come vediamo oggi, si sta portando dietro, diciamo, altri nomi di peso, e sono un segnale importante, sì. Perché non ce lo dimentichiamo, cioè se siamo in questo pantano sul caso Regeni è per equilibri internazionali, non solo economici, anche diplomatici, quindi anche sul piano della diplomazia che bisogna agire, e non solo sull'Egitto, evidentemente. Chiaro. Quindi la mossa di Auges è una mossa doppiamente, non è solo simbolica. Sì, no, è uno spunto interessante, sì, per rappresentare l'altra parte. C'è chi dice invece, guardate, la Legion d'Onore rappresenta un legame, un fronte di amicizia, se vogliamo, un simbolo di amicizia con l'intero popolo francese, e non ha a che fare con le singole onorificenze che vengono concesse o con una singola presidenza. No, anche neanche il caso Regeni ha a che fare con l'intero popolo egiziano, è ovvio. Dopodiché la diplomazia si basa su quello, cioè su gesti che abbiano più letture, non quelle dell'attacco a un popolo. Nessuno si sognerebbe mai neanche di sminuire il valore dell'onorificenza, anzi, rifiutarla significa attribuirle un valore. Se non valesse niente, se la sarebbe tenuta Auges, no? Anche questo è un buon punto. 349-238-6666, se volete, anche su questo tema, con le vostre voci, i vostri WhatsApp, audio, SMS, messaggi su WhatsApp. A chiudere, prima di chiudere, vi dico, aderisco entusiasticamente alla campagna lanciata dal nostro Dario Ricci, ripresa poi dal Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, che su questo ha intervistato il presidente della FIGC Gravina, di quest'anno. Il titolo di capocannoniere viene assegnato ogni anno, come sapete, il capocannoniere del campionato. Ebbene, il nostro Dario Ricci ha proposto, Radio 24 propone di assegnarlo nel nome di Paolo Rossi, dare questo nome al trofeo di capocannoniere. Vedremo se questa campagna sfonderà. Qua aderiamo entusiasticamente. Cara Marianna Aprile, giornalista di oggi, autrice del Grande Inganno, First Lady, Nemiche Perfette ed Eroine Silenti, noi ci risentiamo alla prossima, Marianna, tanto ti ribecco, ciao.